25 maggio 1975, Alberto Brasili. La sera del 25 maggio 1975, poco più di un mese dopo i tragici omicidi di Varalli e Zibecchi, viene ucciso vicino Piazza San Babila, allora roccaforte neofascista, Alberto Brasili. Il contesto non è quello di un corteo o di una protesta politica, ma il delitto avviene nel mezzo della quotidianità più normale. Brasili era infatti fuori con la propria fidanzata, e i due vengono aggrediti perché vestiti da comunisti. Cinque neofascisti li picchiano e poi accoltellano lui. Verranno riconosciuti colpevoli dell'omicidio e tentato omicidio e saranno condannati ad anni di carcere. Alberto Brasili aveva 26 anni, era uno studente lavoratore, non militava in nessuna formazione, anche se era un simpatizzante attivo di sinistra.